34. Valency ebbe due momenti meravigliosi quella primavera. Un giorno, mentre stava tornando a casa attraverso i boschi, con le braccia piene di fiori di maggio e abete rosso strisciante, incontrò un signore che sapeva essere Alan Tierney. Alan Tierney, il famoso pittore di donne bellissime. In inverno viveva a New York, ma possedeva un cottage su un'isola nella parte nord del Mistawis, ove andava ad alloggiare dopo il disgelo del lago. Era considerato un uomo solitario ed eccentrico, non adulava mai le sue modelle. Non ce n'era alcun bisogno, giacché mai avrebbe ritratto qualcuna che chiedesse di essere lusingata. Essere dipinta da Alan Tierney era il massimo riconoscimento di bellezza cui una donna potesse aspirare. Valency aveva sentito così tanto parlare di lui che non poté fare a meno di rivolgergli da sopra la spalla un altro timido e curioso sguardo. Un pallido raggio di sole primaverile filtrò attraverso un grande pino e si posò obliquamente sulla sua nuda e nera testa e sugli occhi allungati. Indossava un maglioncino verde pallido e si era intrecciato un nastro con delle linnee tra i capelli. La soffice cascata di abete strisciante che si riversava fuori dalle sue braccia le ricadeva tutti intorno. Gli occhi di Alan Tierney si illuminarono. «Ho avuto una visita!» disse Barney il pomeriggio seguente quando Valency, che era nuovamente andata in cerca di fiori, fu di ritorno. «Chi?» Valency ne fu sorpresa, ma rimase indifferente e iniziò a riempire un recipiente con i fiori di maggio. «Alan Tierney, vuole ritrarti, Moonlight?» «Me?» Valency lasciò cadere il recipiente e i fiori di maggio. Ti stai prendendo gioco di me, Barney? Non è vero. È per questo che Tierney è venuto fin qui, per chiedermi il permesso di ritrarre mia moglie nei panni dello spirito del Muskoka o qualcosa del genere. Balbettò Valency. Alan Tierney non dipinge mai nient'altro che donne bellissime, terminò Barney. Te lo concedo. Come volevasi dimostrare, la signora Barney Snaith è una donna bellissima. Sciocchezze, disse Valency, chinandosi per raccogliere i fiori. Sai che è un'assurdità, Barney. So di avere un aspetto migliore di un anno fa, ma non sono bella. Alan Tierney non si sbaglia mai, affermò Barney. Dimentichi, Moonlight, che ci sono diversi tipi di bellezza. La tua immaginazione è ossessionata dalla scontata bellezza di tua cugina Olive. Oh, l'ho vista, è uno schianto. Ma Alan Tierney non la ritrarrebbe mai. Per dirla volgarmente, lei tiene tutta la merce in bella mostra, ma nel tuo subconscio sei convinta che chiunque non assomigli a Olive non possa essere bella. Oltretutto, ti ricordi del volto che avevi quando alla tua anima non era permesso di risplendervi? Tierney ha accennato qualcosa riguardo la curva della tua guancia mentre ti guardavi indietro al di sopra della spalla. Sai che ti ho spesso detto quanto sia accattivante e ha una vera passione per i tuoi occhi. Se non fossi assolutamente certo che è puramente professionale, è proprio un vecchio scapolo brontolone, sai, sarei geloso. Beh, io non voglio essere ritratta, disse Valency, spero tu glielo abbia detto. Non potevo dirglielo, non sapevo cosa tu desiderassi, ma gli ho detto che non volevo che mia moglie fosse ritratta, appesa in un salone per essere osservata dalla folla. Non volevo che appartenesse a un altro uomo, poiché naturalmente io non potrei acquistare il dipinto. E così. Se anche tu avessi desiderato essere ritratta, Moonlight, il tuo tirannico marito non lo avrebbe permesso. Tierney era un po' su di giri, non è abituato a essere contraddetto a quel modo. Le sue richieste sono come dei privilegi regali. Ah, oh, ma noi siamo dei fuorilegge, rise Valency. Non ci inchiniamo a nessun decreto, non riconosciamo alcuna sovranità. In cuor suo pensò spudoratamente: Oh, vorrei che Olive sapesse che Alan Tierney desiderava ritrarmi. Voleva ritrarre me, la piccola zitella di un tempo Valency Stirling. Il secondo momento meraviglioso si presentò in una sera di maggio. Valency realizzò di piacere veramente a Barney. Lo aveva sempre sperato, ma talvolta nutriva un sottile, sgradevole, persistente terrore. Che lui fosse gentile, carino e amichevole soltanto per pietà, sapeva che non le restava molto da vivere ed era determinato a farla stare bene per il tempo che le rimaneva. Ma nel subconscio anelava a tornare libero, senza alcuna donna invadente nella sua isola e senza una chiacchierona che lo assillasse durante le sue passeggiate nel bosco. Sapeva che lui non avrebbe mai potuto amarla, non lo desiderava neppure. Se l'avesse amata sarebbe stato infelice quando fosse morta. Valency non faceva mai giri di parole, non utilizzava espressioni come andarsene e non voleva assolutamente che lui fosse infelice, ma neppure desiderava che fosse contento o che si sentisse sollevato. Voleva piacergli e voleva che sentisse la sua mancanza come una buona compagnia. Ma non era mai stata sicura di piacergli fino a quella notte. Camminarono su per le colline sotto il tramonto, ebbero la delizia di scoprire una sorgente incontaminata in una vallata ricoperta dalle felci e si abbeverarono assieme dalla corteccia di una betulla. Arrivarono a una cadente recinzione e vi rimasero seduti per lungo tempo. Non parlarono molto, ma Velen si avvertì un curioso senso di comunione. Sapeva che ciò non sarebbe successo se non fosse piaciuta a Barney. Tu, deliziosa piccola creatura, le disse Barney d'un tratto. Oh, deliziosa piccola creatura, talvolta sento che sei troppo bella per essere vera, che devi essere soltanto un sogno. Oh, perché non posso morire ora, in questo preciso istante, quando sono così felice? Pensò Valency. Beh, non poteva mancare molto adesso. Valency aveva sempre pensato che sarebbe sopravvissuta più dell'anno prospettato dal dottor Trent. Non era stata accorta, non aveva neppure mai tentato di esserlo, ma in qualche modo aveva sempre contato di superare quell'anno. Aveva evitato di pensarci, ma adesso, lì seduta vicino a Barney, con le mani nelle sue, quell'improvviso pensiero la colpì. Non aveva avuto un attacco di cuore da lungo tempo, almeno da 2 mesi. L'ultimo risaliva a 2 o 3 notti prima che Barney si trovasse fuori nella morsa della tempesta. Da allora non aveva ricordato di avere un cuore. Beh, indubbiamente ciò presagiva l'approssimarsi della fine. La natura aveva abbandonato la lotta. Non ci sarebbe stato più dolore. Temo che il paradiso sarà assai insulso dopo quest'ultimo anno, pensò Valency. Ma forse non conserviamo il ricordo. Sarebbe bello. No, no, non voglio dimenticare Barney. Preferirei sentirmi miserabile in paradiso nel ricordarlo, piuttosto che essere felice perché l'ho dimenticato. E ricorderò per l'eternità che gli piacevo davvero. 35. 30 secondi possono essere molto lunghi talvolta, abbastanza lunghi per operare un miracolo o una rivoluzione. In 30 secondi la vita mutò completamente per Barney e Valency Snaith. In una sera di giugno fecero una gita attorno al lago con la loro barchetta, pescarono per un'ora in un piccolo torrente, lasciarono là l'imbarcazione e si incamminarono attraverso i boschi fino a Port Lawrence, a 2 miglia di distanza. Valency si aggirò un po' per i negozi e si procurò un paio di scarpe pratiche. Il suo vecchio paio si era improvvisamente e completamente rovinato e quella sera fu costretta a indossare delle eccentriche calzature in pelle con il tacco piuttosto alto e sottile, che aveva comprato in un impeto di follia in un giorno d'inverno perché erano belle e voleva fare un acquisto pazzo e stravagante, almeno una volta nella vita. Qualche volta le metteva alla sera nel castello blu, ma questa era la prima volta che le indossava per uscire. Beh, non fu facile risalire attraverso le foreste e Barney la canzonò senza pietà, ma a dispetto dell'inconveniente, Velen si trovava segretamente piacevole l'aspetto delle caviglie sottili e dell'alto collo del piede sopra quelle graziose folli scarpette, pertanto non le cambiò nel negozio come avrebbe dovuto fare. Il sole riluceva basso sopra i pini quando lasciarono Port Lawrence. A nord le foreste si richiudevano piuttosto bruscamente attorno alla città. Valency aveva sempre l'impressione di passare da un mondo a un altro, dalla realtà al regno delle fate quando usciva da Port Lawrence, e in un battibaleno lo ritrovava chiuso dietro di sé da un esercito di pini. A 1 miglio e mezzo di distanza da Port Lawrence c'era una piccola ferrovia con una minuta stazione di polizia che a quell'ora del giorno era abbandonata, giacché non era previsto alcun treno locale. Non poteva scorgersi neppure un'anima quando Barney e Valency emersero dalla foresta. Sulla sinistra, un'improvvisa curva dei binari lo celava alla vista, ma da sopra le cime degli alberi la lunga scia di fumo preannunciava l'arrivo di un treno di passaggio. Le rotaie stavano vibrando sotto quel frastuono quando Barney attraversò la deviazione dei binari. Valency era qualche passo dietro di lui e si stava attardando a raccogliere le campane di giugno lungo il piccolo e tortuoso sentiero. Rimaneva molto tempo per attraversare prima che il treno giungesse e si incamminò spensieratamente sul primo binario. Non fu mai in grado di dire come fosse accaduto. I successivi 30 secondi le sarebbero sempre apparsi come un caotico incubo nel quale aveva sopportato l'agonia di 1000 vite. Il tacco delle sue graziose folli scarpette si incastrò nella fenditura della deviazione presente sui binari. Non riusciva a liberarlo. Barney! Barney! Chiamò allarmata. Barney si voltò, comprese il pericolo, vide il suo volto cereo, si precipitò indietro, tentò di liberarla, tentò di strattonare il piede da quella presa micidiale, invano. Un istante dopo, il treno sarebbe avanzato sulla curva, sarebbe stato sopra di loro. Vattene, vattene, presto, rimarrai ucciso, Barney, gridò Valancy, tentando di allontanarlo. Barney si inginocchiò, bianco come uno spettro, strattonando freneticamente il laccio della scarpa. Il nodo resistette alle sue dita tremanti, tirò fuori un coltello dalla tasca e lo lacerò. Valancy stava ancora ciecamente lottando per allontanarlo. Nella sua mente c'era soltanto il terribile pensiero che Barney sarebbe rimasto ucciso. Non pensava affatto al pericolo che lei stessa stava correndo. Barney, vattene, vattene, per l'amor di Dio, vattene! Mai! Mormorò Barney a denti stretti. Dette un violento strattone al laccio e quando il treno rimbombò attorno alla curva, Barney saltò su e afferrò Valency trascinandola via e lasciando la scarpa dietro di sé. La corrente d'aria prodotta dal treno in movimento gli fece gelare il sudore che aveva sul volto. «Grazie a Dio!» sussurrò. Per un istante rimasero a fissarsi come inebetiti. Due pallide e turbate creature dal folle sguardo. Poi barcollarono fino alla piccola panca della stazione di polizia e vi si lasciarono ricadere sopra. Barney nascose il volto tra le mani e non disse una sola parola. Valency rimase seduta, guardando con occhi ciechi, dritto dinanzi a sé verso le grandi foreste di pini, i ceppi delle radure, le lunghe e lucenti rotaie. Soltanto un pensiero abitava la sua mente frastornata, un pensiero che sembrava arderla come il fuoco avrebbe potuto arderle il corpo. Il dottor Trent le aveva detto, oltre un anno prima, che aveva una grave cardiopatia, che qualunque emozione avrebbe potuto rivelarsi fatale. Se era così, allora perché non era morta adesso, in quel preciso istante? Aveva appena provato un'emozione talmente terribile e intensa come alla maggior parte delle persone capita di avere in un'intera vita, e il tutto condensato in quegli infiniti 30 secondi, eppure non era morta. E non stava minimamente peggio di prima. Aveva le ginocchia un po' molli, come chiunque altro avrebbe avuto, il battito del cuore accelerato, come a chiunque altro sarebbe capitato, ma niente di più. Perché? Era possibile che il dottor Trent avesse commesso un errore? Valancy si prese a tremare come se un vento freddo le avesse improvvisamente gelato l'anima. Guardò Barney, curvo di fianco a lei. Il suo silenzio era assai eloquente. Aveva avuto lo stesso pensiero. Si trovava ad un tratto a confrontarsi con il terribile sospetto di essersi sposato non per qualche mese o un anno, ma per l'intera vita con una donna che non amava e che gli aveva giocato un qualche scherzo, gli aveva mentito. Valancy si sentì disgustata di fronte a tale orrore. Non poteva essere. Sarebbe stato troppo, troppo crudele, troppo diabolico. Il dottor Trent non poteva essersi sbagliato. Impossibile. Era uno dei migliori specialisti in malattie cardiache di tutto l'Ontario. Era stordita, snervata dal recente orrore. Rammentò alcuni dei tremendi spasmi che aveva avuto. A giudicare da quelli, il suo cuore doveva avere qualcosa di serio. Ma non ne aveva più avuti da quasi 3 mesi. Perché? In quel momento Barney si riscosse, si alzò in piedi, senza volgere lo sguardo verso Valency e disse con noncuranza: «Suppongo sia meglio tornare indietro, il sole sta tramontando. Ce la fai a percorrere il resto del tragitto?» «Penso di sì», rispose Valency miseramente. Barney attraversò la radura e raccolse il pacchetto che aveva lasciato cadere, quello che conteneva le scarpe nuove. Glielo portò e, senza offrirle alcun aiuto, Aspettò che lei le tirasse fuori e le calzasse, mentre lui restava in piedi dandole la schiena, lo sguardo che vagava oltre i pini. Discesero in silenzio lungo l'ombreggiato sentiero che conduceva al lago. Sempre in silenzio Barney guidò l'imbarcazione nel miracoloso tramonto che era il Mista Whis. In silenzio aggirarono soffici promontori e attraversarono baie color corallo e fiumi argentati sui quali le canoe scivolavano avanti e indietro sotto gli ultimi bagliori del sole che calava. In silenzio superarono dei cottage nei quali echeggiavano musica e risate. In silenzio giunsero all'approdo sotto il castello blu. Valency salì i gradini in pietra ed entrò in casa. Si lasciò miseramente cadere sulla prima sedia che trovò, lo sguardo fisso oltre il bovindo, inconsapevole delle frenetiche fusa di gioia di good luck e dei selvaggi sguardi di protesta che Benjo le indirizzava, avendo lei occupato la sua poltrona. Barney entrò pochi minuti dopo. Non le si avvicinò, ma rimase in piedi dietro di lei e le chiese gentilmente se avvertisse un qualche peggioramento in seguito a quell'esperienza. Valency avrebbe regalato quell'anno di felicità per poter in tutta onestà rispondere sì. No, disse in modo piatto. Barney andò nella stanza di Barbablù e chiuse la porta. Lo sentì camminare avanti e indietro. Non aveva mai camminato così prima di allora. E un'ora prima, soltanto un'ora prima, era stata così felice. 36. Finalmente Valency andò a letto. Prima però rilesse la lettera del dottor Trent. La confortò un po'. Così decisa, così certa, la grafia così nera e regolare. Non era la scrittura di un uomo che non sapeva di cosa stesse parlando, ma lei non riusciva a dormire. Quando Barney entrò, finse di essere addormentata. Barney finse di andare a dormire, ma Valency sapeva perfettamente bene che lui non stava dormendo più di quanto non lo facesse lei. Sapeva che era lì disteso, lo sguardo fisso nell'oscurità. A cosa stava pensando? Che cosa stava cercando di affrontare? Valency, che aveva trascorso da sveglia così tante notti felici, sdraiata vicino a quella finestra, le pagò adesso a caro prezzo, con questa unica notte di infelicità. Un orribile, funesto dato di fatto si parava di fronte a lei, emergendo da quella nebbia di congetture e paura. Non poteva chiudere gli occhi, respingerlo, ignorarlo. Il suo cuore non poteva avere niente di grave. Qualunque cosa avesse detto il dottor Trent, se così fosse stato, quei 30 secondi l'avrebbero uccisa. Non era di alcuna utilità rievocare la lettera del dottor Trent e la sua reputazione. Talvolta i più grandi specialisti commettevano errori. Il dottor Trent ne aveva commesso uno. Punto. Verso il mattino, Valency fu assalita da sogni grotteschi, in uno dei quali Barney la rimproverava per averlo ingannato. Nel sogno lei perse la pazienza e lo colpì violentemente sulla testa con il mattarello. Risultò essere fatto di vetro e si frantumò in schegge che si sparsero per tutto il pavimento. Si destò con un grido di orrore, un anelito di sollievo, una risatina sull'assurdità del suo sogno e un miserabile e disgustoso ricordo di quanto accaduto. Barney se n'era andato. Valency sapeva, proprio come le persone talvolta sanno le cose inesplicabilmente senza che siano loro state dette, che lui non si trovava a casa e neppure nella stanza di Barbablù. Un curioso silenzio permeava la sala, un silenzio per certi versi sconcertante. La vecchia sveglia si era fermata, Barney doveva avere dimenticato di caricarla, qualcosa che non gli era mai capitato prima di allora. Senza quella sveglia, la stanza era morta. Nonostante il sole si infiltrasse attraverso il bovindo e cerchi di luce provenienti dalle esterne onde danzanti tremolassero sopra le pareti. La canoa non c'era, ma Lady Jane si trovava sotto gli alberi, così Barney si era consegnato alla natura selvaggia. Non sarebbe stato di ritorno prima di notte, forse neppure allora. Doveva essere arrabbiato con lei. Quel suo furioso silenzio doveva significare collera, freddo, profondo e giustificabile risentimento. Bene, Valency sapeva che cosa avrebbe dovuto fare, tanto per iniziare. Adesso la sua sofferenza si era attenuata, eppure quel curioso torpore che pervadeva il suo essere era in qualche modo peggiore del dolore. Era come se qualcosa fosse morto dentro di lei. Si sforzò di cucinare, di fare un po' di colazione, meccanicamente riordinò alla perfezione il castello blu, poi indossò il cappello e il soprabito, chiuse la porta, nascose la chiave nell'incavo del vecchio pino e approdò alla terraferma con la barca a motore. Sarebbe andata a Deerwood per vedere il dottor Trent. Doveva sapere. 37. Il dottor Trent la guardò perplesso e frugò nei suoi ricordi. Mrs. Nath, disse quietamente Valency. Ero Miss Valency Sterling quando venni da lei lo scorso maggio, più di un anno fa. Desideravo consultarla riguardo al mio cuore. Il volto del dottor Trent si schiarì. Oh, ma certo, adesso ricordo. Non deve biasimarmi se non l'ho riconosciuta. Lei è cambiata splendidamente. E si è sposata. Bene, bene, le ha giovato. Adesso non sembra affatto un'invalida, vero? Ricordo quel giorno, ero terribilmente preoccupato. Le notizie sul povero Ned mi avevano atterrito, ma Ned è come nuovo adesso. E anche lei, evidentemente. Le dissi, come ben sa, le dissi che il suo cuore non aveva niente di serio. Valency lo guardò. Lei mi disse nella sua lettera. Parlò lentamente, con la curiosa sensazione che qualcun altro si esprimesse attraverso le sue labbra, che io avevo l'angina pectoris, agli ultimi stadi, complicata da un aneurisma, che potevo morire in qualsiasi momento, che non potevo vivere per più di un anno. Il dottor Trent la fissò. Impossibile! Esordì perplesso. Non avrei potuto dirglielo. Valency prese la lettera dalla sua borsa e gliela porse. Miss Valency Sterling, lesse. Ma sì, naturalmente, le scrissi sul treno quella notte, ma le dissi che non aveva niente di grave. Legga la sua lettera, insisté Valency. Il dottor Trent la tirò fuori, l'aprì, le dette una scorsa, uno sguardo di sgomento apparve sul suo volto, saltò in piedi e iniziò a camminare freneticamente per la stanza. Buon Dio! Questa è la lettera che dovevo indirizzare alla vecchia Miss Jane Sterling di Port Lawrence. Anche lei era qui quel giorno. Le ho inviato la lettera sbagliata. Oh, quale imperdonabile negligenza! Ma ero fuori di me quella notte, mio Dio! E lei ha creduto? Ha creduto? Ma non l'ho fatto. Lei è andata da un altro dottore. Valency si alzò in piedi. Si voltò, si guardò follemente attorno e si sedette di nuovo. Le ho creduto, disse debolmente. Non sono andata da nessun altro medico. Io. Oh, sarebbe troppo lungo da spiegare, ma pensavo che sarei presto morta. Il dottor Trent si arrestò dinanzi a lei. Oh, non potrò mai perdonarmi. Che anno deve avere trascorso? Ma lei non sembra. Non riesco a capire. Oh, lasci perdere, disse Valency in tono piatto. Il mio cuore allora non ha niente. Beh, niente di serio. Aveva ciò che viene comunemente definita una pseudoangina, non è mai fatale. Guarisce spontaneamente se idoneamente curata, o talvolta con una grande emozione di gioia. Le ha dato molto fastidio. Per niente da marzo in poi, rispose Valency. Ricordava la meravigliosa sensazione di rinascita che aveva avuto quando aveva visto Barney tornare a casa sano e salvo dopo la tempesta. Quello shock di gioia l'aveva forse curata? Beh, allora suppongo che lei stia bene. Nella lettera che avrebbe dovuto ricevere le spiegavo che cosa avrebbe dovuto prendere e naturalmente davo per scontato che fosse andata da un altro medico, figliola, perché non lo ha fatto? Non volevo che nessuno lo sapesse. Oh, che sciocca! Disse il dottor Trent senza mezzi termini. Non riesco a comprendere una tale follia. E la povera vecchia Miss Sterling deve aver ricevuto la sua lettera, nella quale le dicevo che non c'era niente di serio. Bene, bene, non avrebbe fatto alcuna differenza. Il suo caso era senza speranza. Niente di ciò che lei avrebbe potuto fare o non fare avrebbe cambiato le cose. Sono sorpreso che abbia vissuto così a lungo, 2 mesi. Era qua quel giorno, non molto tempo prima che arrivasse lei. Odiavo doverle dire la verità. Lei pensa che io sia un rude e vecchio musone, in effetti le mie lettere sono piuttosto esplicite. Non posso addolcire i fatti, ma sono un grande codardo quando si tratta di guardare in faccia una donna e dirle che sta per morire. La informai che avrei valutato alcuni aspetti del suo caso dei quali non avevo certezza e che le avrei fatto sapere il giorno seguente. Ma lei ha ricevuto la sua lettera. Guardi qui, cara Miss Sterling. Sì, l'avevo notato, ma credevo si trattasse di un errore, non sapevo vi fossero degli Sterling a Port Lawrence. Lei era l'unica, una vecchia anima solitaria. Ha vissuto per conto suo con la sola compagnia di una domestica. Lei era Sterling con la E e lei è Sterling con la I. È morta 2 mesi dopo essere stata qui, morta nel sonno. Il mio errore non avrebbe potuto fare alcuna differenza per lei. Ma lei, non posso perdonarmi di averle inflitto un anno di miseria. Oh, è tempo che io mi ritiri se faccio cose del genere, e questo nonostante mio figlio fosse considerato ferito a morte. Potrà mai perdonarmi? Un anno di miseria. Velen si sorrise in modo straziante mentre pensava a tutta la felicità che l'errore del dottor Trent le aveva portato. Adesso però la stava pagando cara. Oh, come la stava pagando! Se provare qualcosa significava vivere, allora stava vivendo intensamente. Lasciò che il dottor Trent la visitasse e rispose a tutte le sue domande. Quando le disse che era sana come un pesce e che sarebbe probabilmente vissuta per un centinaio di anni, si alzò e si allontanò silenziosamente. Sapeva che c'erano un sacco di cose terribili là fuori che aspettavano di essere sistemate. Il dottor Trent pensò che fosse una strana creatura. Chiunque, a giudicare dai disperati occhi e dal volto affranto, avrebbe pensato che le avesse appena dato una sentenza di morte invece che di vita. Snaith? Snaith? Chi diamine aveva sposato? Non aveva mai sentito il nome Snaith a Deerwood. Ed era una piccola zitella così giallastra e spenta, Dio! A ogni modo, il matrimonio l'aveva enormemente cambiata, chiunque fosse quello Snaith. Snaith. Il dottor Trent rammentò, quella canaglia della landa desolata? Era lui che Valancy Stirling con la I aveva sposato? E la sua famiglia glielo aveva permesso? Bene, probabilmente questo risolveva il mistero. Si era sposata in fretta e con il tempo si era pentita ed era per questo che, dopo tutto, non era entusiasta all'idea di rappresentare una buona assicurazione per il futuro. Sposata? Dio solo sa con chi o con che cosa. Un avanzo di galera, un falsario, un evaso? Doveva essere piuttosto dura per lei. Si aveva guardato alla morte come a una salvezza, povera ragazza. Ma perché le donne erano così sciocche? Il dottor Trent allontanò Valency dai propri pensieri, anche se fino al giorno della propria morte si sarebbe vergognato per aver messo quelle lettere nelle buste sbagliate. 38. Valency si incamminò velocemente per le stradine secondarie e attraverso Lover's Lane. Non voleva incontrare nessuno dei suoi conoscenti, non voleva incontrare neppure le persone che non conosceva, odiava farsi vedere. La sua mente era così confusa, così stanca, così caotica. Aveva la sensazione di avere lo stesso aspetto di sempre. Tirò un lamentoso sospiro di sollievo quando si fu lasciata il paese dietro le spalle e si trovò sulla strada della landa desolata. Qui il timore di incontrare qualcuno era davvero esiguo. Le auto che la superavano con un rauco stridio erano piene di estranei. Una era stipata di giovani che le sfrecciarono di fianco cantando spassosamente: Mia moglie ha la febbre, orbene! Mia moglie ha la febbre, orbene! Mia moglie ha la febbre! Oh, spero che non l'abbandoni perché voglio di nuovo essere solo! Velen si trasalì, come se uno di loro si fosse sporto dall'auto e l'avesse ferita in volto con un frustino. Aveva stipulato un patto con la morte e la morte l'aveva ingannata. Adesso la vita si stava prendendo gioco di lei. Lei aveva intrappolato Barney, l'aveva indotto a sposarla e il divorzio era talmente difficile da ottenere nell'Ontario, così costoso e Barney era povero. Assieme alla vita, la paura era tornata ad albergare nel suo cuore, un'ignobile paura, paura di quello che Barney avrebbe pensato, avrebbe detto, paura per il futuro che lei avrebbe dovuto vivere senza di lui, paura del clan che aveva insultato e ripudiato. Aveva bevuto un sorso dalla divina coppa e adesso le era stata allontanata dalle labbra, senza che una gentile e amichevole dipartita potesse salvarla. Doveva continuare a vivere con il desiderio di morire. Tutto era rovinato, sporcato, deturpato, persino quell'anno nel Castello Blu. Anche il suo spudorato amore per Barney era stato bellissimo perché c'era la morte ad attenderla. Adesso era semplicemente sordido, perché la prospettiva della morte era svanita. Come si poteva sopportare una cosa insopportabile? Doveva tornare indietro e dirglielo. Digli che non aveva avuto intenzione di ingannarlo. Doveva fare in modo che le credesse. Doveva dire addio al suo castello blu e tornare alla casa di mattoni di Elm Street. Tornare a tutto ciò che aveva creduto di essersi lasciata indietro per sempre. La vecchia schiavitù, le vecchie paure. Ma questo non aveva importanza. L'unica cosa che importava adesso era convincere Barney che lei non lo aveva ingannato consapevolmente. Quando Valancy raggiunse i pini vicino al lago, la sua sofferenza fu sviata da una sorprendente apparizione. Là, parcheggiata di fianco alla vecchia, malconcia e sgangherata Lady Jane, c'era un'altra auto. Una meravigliosa auto, un'auto color porpora, non un porpora scuro o imperiale, bensì appariscente e brioso. Risplendeva come uno specchio. E i suoi interni indicavano chiaramente la casta automobilistica dei Verdever. Al posto del guidatore sedeva un altezzoso chauffeur in livrea e sui sedili posteriori c'era un uomo che aprì la portiera e balzò fuori agilmente nel momento stesso in cui Valancy discendeva il sentiero che conduceva al punto di approdo. Rimase in piedi sotto i pini ad attenderla e Valancy memorizzò ogni dettaglio. Un uomo tarchiato, basso e grassoccio, con un volto largo, rubicondo e allegro, un volto ben rasato, sebbene un frenetico diavoletto nel subconscio di Valency le suggerisse che una faccia del genere avrebbe dovuto essere incorniciata da bianche basette. Occhiali, vecchio stile, con la montatura in acciaio sui prominenti occhi blu, una bocca generosa, un piccolo naso rotondo e bitorzoluto, dove annaspò Valency aveva visto quel volto prima di allora? Le sembrava familiare quanto il proprio. Lo straniero indossava un verde cappello e un leggero soprabito di pelle di daino sopra un completo a righe di grandi dimensioni. La cravatta era di un verde brillante, ma di una tonalità più tenue. Dalla mano grassoccia che allungò per fermare Valency un enorme diamante le fece l'occhiolino. A dispetto di ciò, aveva un sorriso gradevole e paterno e nella sua voce cordiale e non modulata c'era qualcosa che l'attirava. Può dirmi, signorina, se quella casa laggiù appartiene a un certo Mr. Redfern e in tal caso come posso raggiungerla? Redfern? La visione di numerose bottiglie sembrò danzare dinanzi agli occhi di Valency. Lunghe bottiglie di amaro, rotonde bottiglie di tonico per capelli, bottiglie squadrate di unguento, delle piccole boccettine tozze e corpulente di pillole color porpora e tutte con impresso sull'etichetta quel volto rubicondo a forma di luna splendente e quegli occhiali con la montatura in acciaio. Il dottor Redfern, quello dell'amaro. No, disse Valency debolmente, no. Quella casa appartiene a Mr. Snaith. Il dottor Redfern annuì. Sì, so che Bernie si fa chiamare Snaith. Beh, il suo secondo nome era quello della sua povera madre, Bernard Snaith Redfern. È lui. E adesso, signorina, potrebbe dirmi come approdare all'isola? Non sembra esserci nessuno a casa. Ho fatto dei cenni, ho gridato. Harry laggiù non se la sognerebbe di gridare, fa un solo lavoro lui, ma il vecchio dottor Redfern può ancora urlare senza sentirsi superiore a queste cose. Ho fatto volare soltanto un paio di corvi. Immagino che Barney sia fuori tutto il giorno. Era già fuori quando sono uscita questa mattina, disse Valency. Suppongo non sia ancora tornato a casa. Parlò con tono piatto e apatico. Quest'ultimo shock dovuto alla rivelazione del dottor Redfern l'aveva privata anche di quel poco raziocinio che le era rimasto. Nel subconscio, quel demonietto prima menzionato non faceva che ripeterle un vecchio sciocco proverbio: non piove mai, ma diluvia. Ma Valency non tentava neppure di pensare a cosa sarebbe servito. Il dottor Redfern teneva lo sguardo fisso su di lei con aria perplessa. Quando è uscita questa mattina? Lei vive laggiù? Fece ondeggiare il diamante verso il castello blu. Naturalmente, disse scioccamente Valency, io sono sua moglie. Il dottor Redfern estrasse un fazzoletto di seta giallo, si tolse il cappello e si asciugò la fronte. Era assai calvo e il demonietto di Valency sussurrò: Perché divenire calvo? Perché perdere la tua virile bellezza? Prova Redfern's Hair Vigor, ti manterrà giovane. Mi scusi, disse il dottor Redfern, è stato un po' scioccante. Le grandi emozioni sembrano permeare l'aria questa mattina. Il genietto espresse queste parole ad alta voce prima che Valency potesse impedirlo. Non sapevo che Bernie fosse sposato. Non credevo si sarebbe ammogliato senza dirlo al suo vecchio padre.